fare anche adesso questa cucina di Pasqua, siamo ormai prossimi alla Pasqua. Ma ripartire dipenderà questo risultato, questo obiettivo, dal nostro comportamento. Dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo, dobbiamo continuare a rispettare le regole anche in questi giorni che saranno di festa, dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali. La proroga che oggi disponiamo con questo nuovo DPCM che ho appena firmato vale anche per le attività produttive. Quindi abbiamo sempre messo, continuiamo a mettere la tutela della salute al primo posto, ma nello stesso tempo cerchiamo anche di ponderare tutti gli interessi in campo, teniamo anche conto della tenuta, ci sta molto a cuore anche la tenuta del nostro tessuto socio, del nostro tessuto economico. La nostra determinazione è quella di allungare il prima possibile le misure per poter attività produttive, per poter far ripartire quanto prima in condizioni di sicurezza il motore del nostro paese a pieno regime. Siamo però ancora in quella condizione di poter ripartire a pieno regime. Dobbiamo quindi attendere quello che noi stiamo vedendo nelle prossime elezioni, inizi anche prima del programma di verificarsi con le condizioni. Cercheremo ovviamente di prevedere il nostro paese. Per quanto riguarda le variazioni, c'è qualche variazione in merito alle attività produttive. Dal 14 aprile, riapriamo cartoni, librerie.